è arrivato il casinista. Cosa? Ma una scena qua. È una scena, adesso mi imita. Sto punto che vuoi qui là, la Gabriele Masso che andrei meno. Ma che no? Tu la. Ah, vabbè, quella non è tanto episodio. Ci hanno chiamato proprio tu, io direttore, io per io ho deciso quando ne chiamato. È uno dei tanti quello. E allora di cosa ti vuoi lamentare? Ma sei tu quello con Buraetto. Ma io non voglio far casino ancora. Ah, oh, scuola no. Scappa. Da chi tu e poi il capo si buona musica, si buona, e già non voglio. Va delle cose, delle sembianze strane proprio. I bambini sono. Mi piace toccare tutto, infatti bisogna togliere tutto, i soprammobili bisogna toglierli perché sennò ti toccano tutto. Lo so, Guglielmo, fatti un poco di casino. Io vi saluto che tra un po' arriva la 50 e devo mangiare, dai. Ci sentiamo alle prossime, vi ascolto comunque. Meglio va. Voi vieni menina già, vieni menina. Oggi ho sofferto le pene dell'inferno. Poi no, perché le mie voci ti sentivo più rilassato. E a che va mi è passato l'udurore, che ha giubilato durante il dolorifico, ha giubilato, ma c'aveva un dolore stasera, guarda, meglio la morte. Vabbè dai, ci sentiamo alle prossime, ciao già, ciao Antonio e ciao Luca, e chi altri ci fosse all'ascolto, grazie per le quattro chiacchiere. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao Natale, ce la sentiamo anche lui. Allora che Luca quando entra da voi non entra più. Entra un attimino da voi non entra più. Ma l'altro giorno sono andato a portarmi le bombole io. Oh, quindi adesso vedrai che ti piglia fisso, che ti piglia di nuovo. Perché secondo me lui è perché non c'avevi la patente che lui ti voleva, perché devo pagare due al posto di uno, io ci ho pensato. Purtroppo è per quello. Però mi ha dato burro di più, mi ha dato. Perché giustamente, scusami. Che cosa hai guidato, la moto o la macchina? La macchina, non abbiamo la strada noi, la macchina. Poi quella di pala. Ah, ho capito. Anche tu, fatto il contilolo, doveva pagare i due invece che uno. Invece paga solo a te e tu fai tutto. Ma io faccio tutto dalla alla destra. E poi non c'è possibilità che ti bilanci tutta la. Non lo so, devo parlare con lui, devo parlare. Se mi vuole. Non tocca! Madonna! Oh. E almeno c'è un stipendio fisso. Il problema è quello, il problema è che. Bisogna vedere. Non lo so. E adesso tu fai vedere che sai fare da lui. Già ci pensa lui a dirtelo. Non lo so, adesso devo vedere un po', devo vedere. Perché io voglio ordinare, se fa la lavorare voglio i soldi, punto. Se vuoi pagare ogni anno? Se vorrei anche un'assicurazione per un futuro mio, un indomani, per avere qualcosa. Quello è vero, quello è vero, anche per la pensione. Perché finché vado così, ogni tanto succede nulla, ma capo, andare tutti i canti di lì e coso, io purtroppo almeno 1.200-1.300 li voglio per lavorare. Ma giudico tutto io e coso, almeno 1.300 io li voglio, 1.200. Certo che sì, anche 1.500 va bene. A vera volta buttate le bombole, ma cosa fa una miseria? No. Ma ci vuole patente speciale per guidare quel mezzo lì con le bombole? Ma cosa? La bici ci vuole. E non ci vuole qualche autorizzazione per portare mezzi esplosivi con materiale esplosivo? No, non ci vuole perché non superi quel tanto, capito? Non bisogna superare 300 kg. Ah, ho capito. No, perché per il camion ci vuole. Non mi ricordo mai. Ci vuole il coso, ci vuole il. Ma non è un camion. Capito? Gabri, basta toccare, ma porca miseria! Oh! La DR che ci vuole per le per quelli per i mezzi che portano esplosivi e roba così, però loro non superano e quindi non ci vuole nulla. Basta più di un certo numero di bombole non portarle. La DR ci vuole, però ci vuole anche l'estintore a posto, se no ti ne pigliano la patente. Io siccome non ne ho voglia, dovevo controllare la revisione, controllo. Cioè, io ho controllato la revisione prima di partire, se no non ne avevi, tu non chissà te la guidi tu. E la revisione che sia l'estintore valido, capito? Devi controllare quello, se no sono affari tuoi. Ogni 6 mesi va revisionato l'estintore. E deve essere valido. Devi controllare anche la macchina che sia revisionata, perché quella ogni anno vuole revisionata. No, la macchina è uguale come tutti i mesi, ogni 2 anni. Cioè, è come tutti i mesi, prima immatricolazione se la compri 4 anni, seconda immatricolazione 2 anni di revisione. Te lo sto dicendo perché ho studiato. Sì, vabbè, io pure l'ho studiato, però non lo so se quella va ogni anno. Per esempio, le ambulanze ogni anno volevano revisionate. Sì, le ambulanze sì, le appoggio anch'io, però i mezzi quindi non lo so. Sì, si dovrebbe informare. E l'estintore controllare che sia sempre valida la cosa. A chi si sta facendo l'estintore caduto, so cazzi acidi. No, è uguale, non bisogna informarmi, te lo dico io. Come una vettura normale, ogni 2 anni va fatta la revisione. Te lo dico io tranquillamente. Cazzo, ci ho lavorato in mezzo, quindi so tutto. Obbligatori i cartelli davanti e dietro, sono obbligatori perché stai portando quella materia lì. E infatti, ci vuole il cartello davanti e dietro per dire che è pericoloso. Appa. A chi ci fa lo sovraccarico con quella macchina? E lui se ne frega, ti fa 2 bolle, tu sei un cavoli tuoi sono, perché non hai la DR, cazzo ti vado, di nuovo ti vado, non devi superare, lui già te lo fa bene il conto, quello della Liquigas, però poi sono cavoli tuoi quello che stai trasportando. Si t'acciappani, ti codini una bella cuzzurata, come se lui era di Gessa, ha fatto una cosa del genere. Cosa c'è? Madonna, oh. Ha fatto una cazzata del genere, tanto dopo 2 mesi è stata patente. Se ti trovano che superi il peso, so cazzi. Ma ancora non è arrivata, chissà. Sono stanco, sono. Di Roma, come? Chi su, il sacchiotto, ha caricato il gol, ha ciappato la stradale, l'ha filmato, ha detto, non ha pigliato la patente, quindi Romacco. Carricheggia bombo, li fa. Infatti, perché c'è un limite per andare senza l'ADR. Cazzo, se no vivo l'ADR, si superi. Devo vissa. E se è stato che te mi l'avevi ubbigliata. Solo ti la devi pagare tu, a chiedo non te ne paga Mara giusto. No, vabbè, per quanto devo trasportare io non me la fotti nulla. Ma se l'hai è meglio. Più così vai è meglio è. Se paghi su maggio ubbiglia buracci, se ci cucina, no, anda bella B. Vabbè, non devi portare i mezzi pesanti, no? A chi si piglierà ci da voi vivo un CQC, cazzo, ed è una spesa a passo, lui. Adesso stanno rendendo una vita difficile. Cazzo, avrà mai a pagare 3-4 mila euro di battente? Oh. Io a me lo dici, io c'avevo la D, c'avevo 2 CQC perché c'avevo persone e cose, quindi ne avevo 2. Cazzo. Me l'ha giocata la classe A, allora va a giurare la A e la B. Ah, degli assassini ce l'hanno. me l'ho fatta declassare, se no mi toccava pagare il CQC. Per avere la B mi ha fatto dare la B. Cazzo, cosa me ne faccio di la D se non l'ero drattendi? Ma cosa cazzo devo in Dinapa rinnovare la patente Biru GQC? Non saranno. Se non la stai usando non ti conviene, che sono un sacco di soldi. Era Mabbiatina, avevo un patrimonio, avevo. Vabbè, se non la usi, cosa ne fa? Per prendere quel tipo di patente ci vuole un bel dinamico, ma vabbè, mi ha detto qualche uno che finisce tutto, compreso la D più la E, tutto, tutto finito, mi pare che più di 6.000 euro. E così ci vuole. Ah, ma cos'è o cosa? Oh. Ma poi non si può manco bigliare, come ti la giubilia da io, tutta un'ora. Ah, va prima di biglia chissà di la macchina, da voi chissà di rugamio, da voi si può bruciare burma di biglia la D, da voi si può bruciare l'articolato di biglia la E. Cazzo, e ogni esame che fai? Soldi no. Tutte separate, non si possono prendere tutta un'ora. Ah, va. Vogliono un pacco di soldi e se sbagli vai perso tutto, se sbagli c'è cioè perso tutto, ma Marco, li guidi di chiedere un cameo, cazzo sa quanto costa, non vale 30 euro ne ha guida, ma non mi ne ammetti, ma ci vuole un patrimonio. Infatti, ci vuole un patrimonio per avere una patente così adesso. E poi la devi mantenere, se non stai lavorando ti tocca pagarti il cucin di Bada. No, no, no. Oh, va bene, la B va bene. Infatti. Fatta la parola di lui, vai tu, chi fai tu, basta la B. Almeno c'hai il coso, come si chiama? Così manco puoi pucciare i bomboli. Bastano superare un limite. E così non c'è bisogno manco dell'ADR. Allora non lo so quanto numero di bomboli puoi bruciare. Però più di chi tu tanto non hai bruciato, ma sei sicuro. A che ci serve la stradale, cazzo, sono fiscali al massimo. La verità ti dico, io me la volevo prendere la CQC, anche per, non solo per le, ma, no, normale, per guidare il camion, quelle. Ah, ci ho rinunciato, con un pacco di navigone. Mi stai distruggendo il ventilatore, vieni qua! Madonna, oh! Cioè, cazzo, questo è un allucinante. Sì, vuoi toccare tutto, vuoi toccare. Stai attento, mi chiama la piglia di noci i ventilatori. Figlia che me lo distrugge, va a finire. Sì, infatti, e si può fare anche male. Stai attento per quello. È allucinante, non ve ne cricio, è una cosa che non si crede qua. Io me lo posso immaginare. Tocca con le tue padelline, va. E così, io cioè, me l'avrei anche tentata se costasse di meno, ma di prendermi la C, il CQC, sanno che è capolo. Ehi, a chi ho l'esame della patente, a voi devi dare l'esame di CQC pure. Allora vivo l'esame, quindi cazzo devi studiare Bururu di QC, cazzo, era biglibon. Cioè, ma dimmi tu, davanti, andate a fa... Ma, dammi quella forchettina. Mamma mia, che una scena, Voi quella di buttati da tuo zio a me. Gianni, ci sei ancora? Ci sono. Mi sono accoppinito, se... Cioè, mi sta entrata una forchettina a 30 rubò. Ma cosa sei vendi? Madonna, oh. Quello è a giocattolo, mi. Che è? Va bene. Adesso vado a fare un po' da mangiare, va. Niente, va bene, ci sentiamo, buona serata. Ok, va per lì, ci sentiamo, vado a mangiare, a Ghisù da remoto. Andavè, ci sentiamo alle prossime, dai, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.